Di ritorno da Berlino, convinto dalla Merkel, Bersani fa una controproposta shock. Se mi votate, vi restituisco tutto il Monte Paschi!